Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti, regia del Bolognese Volante. Ed eccoci qua, ben ritrovati, sintonizzati sulle frequenze dei 103 e 100 in modulazione di frequenza. Chi vi parla ovviamente è Franco Paoletti, al di là del vetro il nostro bolognese volante. Che dire, che siamo arrivati ovviamente alla puntata numero 30, se non sbaglio, di domenica 30 luglio 2023. E nonostante il caldo e l'afa, noi siamo presenti qui, no, ovviamente, per parlare di musica e così rinfrescarci di musica, ovviamente. Paoletti, la vedo già male, non si è neanche messo le cuffie, come fa a sentire quello che dice? No, io, come si dice, il bello della diretta, no, è che stavo operando, stavo facendo una cosa, non si può dire. Allora, dicevamo che questa nuova puntata vi rinfrescherà e poi abbiamo tante cose da raccontarvi, non ultimo appunto la morte a sorpresa di questa grandissima cantante, una voce che verrà a mancare nel panorama internazionale, un singolo che ha veramente spopolato, quello che abbiamo in sottofondo, Nothing Compares to You, scritto poi tra l'altro da Prince, che lei ha rinverdito qualche anno fa. E poi cosa è successo? Lei si è riscattata con la musica, la cantante irlandese, insomma, poi ha militato in diversi gruppi e poi così la svolta solista, grande successo, e proprio forse questo successo poi, come dire, l'ha un po' così, come dire, l'ha colpita. Così l'ha lanciata, ma l'ha anche, come dire, colpita in maniera negativa, perché se non si sa poi gestire il successo, ahimè, insomma, ci sono le controindicazioni. Beh, allora Paoletti, intanto diciamo che si tratta dell'ennesima, in noi, commemorazione di una figura importante musicale che ci ha lasciato. Però bando anche a queste tristezze, siamo a Easy Pop, domenica 30 luglio, nuova puntata. Abbiamo avuto due momenti di pausa, diciamo così, perché siamo andati in ferie, quindi abbiamo messo su due puntate registrate, ma rieccoci qui sul pezzo, eccola qua Paoletti. Certo, noi non ci spostiamo da qui, come Trump che non voleva lasciare la Casa Bianca. Non so se potevamo citarlo, ma insomma in questo momento mi vedevo così, quindi l'ho citato. Bene, bando alle ciance, dicevamo, dopo questo saluto doveroso a Sinéad O'Connor, noi a questo punto entriamo nel vivo della nostra trasmissione. Entriamo con ancora della giovane musica, visto che comunque i talent sono praticamente quasi terminati, nel senso che praticamente sono quelli e non c'è un rinnovamento nella TV. Oppure adesso cosa ci sono? Ho visto, stando a casa, il Wind non so che cosa, il Team Force, qualcosa inerente appunto a questi grandi colossi, però cioè non c'è più il fascino del Festival Bar, io volevo dire questo. Quindi noi vi presentiamo Gianluca Centenaro, che ci presenta mezz'ora e poi vi parlo di lui. Ci penso ogni mezz'ora, non so neanche perché, se è solo un'illusione, ma il vuoto quello c'è. Sarà che ho fatto tardi, sarà troppo caffè. Un mese che mi manchi, ti vedo in storie che mi fanno vivere. Mezz'ora in mezz'ora, chissà cosa fai, chissà come stai, se ci pensi. Mezz'ora in mezz'ora, è un gioco che ormai perdo e lo sai, quando ti cerco. E tu non lo fai. Nascosti da due specchi, muri per proteggere. L'ho visto nei tuoi occhi e tu l'hai visto in me. L'hai scritto sulla pelle, la forza è credere che dopo un altro errore l'amore è quello che ci fa vivere. Mezz'ora in mezz'ora, chissà cosa fai, chissà come stai, e se ci pensi. Mezz'ora in mezz'ora, è un gioco che ormai perdo e lo sai, quando ti cerco. Mentre fisso una TV spenta, qualcuno chiede come va. Io che il film ce l'ho già tutto in testa, sei tu la grande star. Sembro un pazzo e questo mi spaventa. Sono sincero, se questo importa, se ti importa. Ti penso ogni mezz'ora. Gianluca Centenaro, mezz'ora. Eccolo qua, adesso Paoletti ci parla di questo nuovo personaggio. Sì, un personaggio curioso perché insomma anche lui ha avuto la sua gavetta e poi di botto è entrato di prepotenza nella classifica nazionale indipendenti del web con alcuni singoli, tra cui ricordo Principessa e Cervo ad agosto, e poi il suo primo album dal titolo Centenaro, e poi via via ha avuto diversi live show che proseguono anche per quest'estate. Il brano che abbiamo ascoltato è il suo nuovo estratto appunto dal suo album, si intitola Mezz'ora, e a questo punto io direi di andare con la prossima. D'appannaggio a proporcela è Potacci, ci canta Campati in aria. Sempre la stessa scena e non si sa da dove venga io, ma per comodità la mia figura si forma in quel momento e qualcosa ti cade di mano. Anzi no, sei tornata a fiorire tu vignetta gentile. Vediamo che da sé te, non so chi, non so che. Simpaticissimo questo brano che ci propone Potacci, che si chiama, Paoletti? Si chiama... Paoletti, chiama, campati in aria, un po' come noi. Per fortuna che fa meno caldo, che l'anticiclone africano ci ha concesso una pausa, Paoletti, per fortuna, se no lei la vedevo male. Ma no, ma perché, insomma, a me piace poi il caldo, contrariamente a quello che si dice. Allora, avete capito che si tratta di un brano rivisto e corretto di un grande della musica italiana, ovvero sia Lucio Battisti, qui con la copiata di Pannella, che era in quel momento, diciamo, il curatore dei testi di appunto Battisti stesso, quando poi lasciò la copiata Piata Mogol, appunto Battisti. Prosegue così il viaggio musicale di Paolo Potacci in questa galassia denominati agli album bianchi, appunto, di Battisti. Lui li ha rivisti corretti, ridato una nuova, così come dire, una nuova spessore, una nuova lucidatura, se così mi potete permettere, di questo album, ma non solo, perché lui, Paolo Potacci, ha ristravolto diverse canzoni di appunto Battisti. Vi invito a scoprire appunto tutte le canzoni da lui rifatte. Paolo Potacci, molto molto bravo, vive a Madrid, e lì a Madrid vuole appunto portare il verbo di Battisti. Non che sia non conosciuto, perché anzi negli anni 80 lui era conosciutissimo, anche perché esistono delle versioni in spagnolo di Lucio Battisti. Bene, detto ciò e fatto omaggio alla musica italiana, andiamo avanti con i Xonous. Ci presentano Baccano. Ehi, baby, bella sfida. Luna nuova, nuova uscita. Tic tac, aspetti online. In questa notte senza moonlight. Ieri a colpi di rima, oggi colpe di autostima. La fama porta il conto ad una certa e tutti contro. E blacklist, le cose da fare, mettiamole tutte lì in fondo alla blacklist. Un occhio soltanto allo Spotify artist. Partiamo senza benzina, in tasca una carta e una cartina. La mia testa sta volando altrove, in cuffia solita canzone. Partiamo rosso braghetto, riprendo i sogni dentro al cassonetto. Cambio marcia col cambio Shimano, in bicicletta facciamo Baccano. Baccano, partiamo, partiamo. Ehi, baby, bella vita, siamo dentro una via d'uscita. Tic tac, tanto lo sai, certe scelte le penso le fai. Ieri senza uno stipendio, oggi quello che voglio spendo. La fama porta il conto ad una certa e tutti contro. E blacklist, le cose da fare, mettiamole tutte lì in fondo alla blacklist. Un occhio soltanto allo Spotify artist. Partiamo senza benzina, in tasca una carta e una cartina. La mia testa sta volando altrove, in cuffia solita canzone. Partiamo rosso braghetto, riprendo i sogni dentro al cassonetto. Cambio marcia col cambio Shimano, in bicicletta facciamo Baccano. C'è chi ha il futuro sempre programmato, chi è ancora chiuso dentro al suo passato, con la vita al 3% e aspetterà, e aspetterà. Partiamo senza benzina, in tasca una carta e una cartina. La mia testa sta volando altrove. Travolgente anche questo brano proposto da questo nuovo personaggio Xonous e la sua Baccano, di cui adesso il buon Paoletti ci illustrerà vita, morte e miracoli. Beh no, anche perché lui è giovanissimo e tra l'altro non si sa chi sia né quanti anni abbia e da dove venga. Però lui ha già così il suo posto al sole nelle classifiche, perché ha raggiunto la prima posizione tra gli emergenti e la seconda posizione tra le vendite best seller di Amazon con i suoi singoli, che poi ha fatto anche da cornice a diversi personaggi appunto del mondo musicale italiano. Quindi una voce già conosciuta. E a questo punto parte il suo progetto solista con questo pezzo che si chiama Baccano. Gli auspici ci sono, perché io mi ricordo Radio Baccano di Jovanotti, che ebbe tanto tanto successo. Le premesse ci sono, la voce c'è, il brano un po' fancheggiante, un po' rap, ci è piaciuto moltissimo. Che dire, se son rose fioriranno. E a questo punto, regia, direi di voltare pagina e velocemente andiamo con Jijomi, Se mi guardi. Arriva, non preoccupatevi. Da come guardi tu, così ti guardo io. Da come parli tu, così ti parlo io. A volte io, un po' di più. E quella dolce età di chi sa ridere senza un motivo, senza un perché, e non ha di che fingere. Sono anime che se ti sfiorano su questa pelle, anche il buio nel cuore si accende con te. Ma la notte ora vivrò e tu dormi. La notte ora sarò nei tuoi sogni. Se ti svegli non ti accorgi che un tuffo ancora su, negli occhi solo tu, e sai sorprenderti con l'innocenza di chi annusa un fiore il lunedì. E forse sarai mamma e sarai anche donna, a volte poi cadrai e ricomincerai, e la tua storia ispirerà come anime che se ci sfiorano su questa pelle, quella volta la luce risplende. Ma la notte ora vivrò e tu dormi. Ma la notte ora sarò sottofondo ricomincerà, forse passerà, forse mancherà, forse solo un po' di amore. Ai ai ai, qualche volta si commettono degli sbagli, è partito il piatto 2 anziché il piatto 1 e quindi anziché Diomi è partito Filippo Ferrante con Tu dormi, ma nessun problema, adesso Paoletti ci spiegherà anche questo nuovo cantante. Certo, lei a caldo, secondo me, avrebbe abbagliato dal caldo, ma del resto è così. Allora, parliamo immediatamente di questo cantautore Filippo Ferrante, Tu dormi, il suo esordio in Battiti Live nel 2008, e poi da lì diversi singoli e soprattutto un album. Tra il 2018 e 2022 pubblica una serie di singoli che ottengono diversi passaggi radiofonici importanti e anche, insomma, soprattutto una grande visibilità nella TV ceca. Il brano che abbiamo ascoltato ora è il suo nuovo singolo, che è praticamente presenta per l'estate, ma è, appunto, lui è in giro a presentare tutti i suoi singoli, il suo album. Che dire, che anche per lui, insomma, si prospetta un'estate molto molto calda, anche perché, insomma, è in tournée e quindi si fa conoscere un po' ovunque. Complimenti anche per Filippo Ferrante. A questo punto, come annunciavo prima, ma arriva Jijomi e ci presenta Se mi guardi. Chiederci che ci odiamo. Se mi guardi, testa nera come un buco nero, senza interruttore, senza dire niente, senza alcun rumore, senza avere meta, una motivazione. Ma tu sai che io sono diverso da come mi dipingo dentro ogni mio testo. Siamo umani, del resto, se non sbagliamo noi, dimmi a chi è concesso. Jackson 5 all night, questa è l'ABC, tu non credermi, che quando prendo la penna e poi scrivo non sono la stessa persona. Come Jim Carrey c'ho una maschera che mi peggiora e mi divora. Siamo tutto quello che vuoi, fino a quando restiamo nella tua testa, perché quando resterai dentro la mia, forse sarai andata via e piangerò per ciò che resta. Se mi guardi, divento un altro uomo, divento ciò che sono, ciò che sono. L'ultima corda, il dolore che ci prende solo se la luna è storta. Siamo alla svolta, una via e una porta, anche se mi porta via non mi importa. Yeah. Ho il posacuore che è nero come della cenere, cenere, cenere. Le buone maniere non servono quando tu devi richiedere, chiedere, chiedere. Come un angelo caduto noi piangiamo e richiamiamo il nostro angelo custode. Pure se non ci risponde noi troviamo scuse nuove. Come avrà cambiato casa e deve ancora avere il modem. Non cercare giustificazione a chi non ha bisogno, perché lo sai che in fondo a questo mondo non cambia se hai ragione o torto, ma se arrivi primo pure secondo. Se mi guardi, divento un altro uomo, ciò che sono. Siamo stanchi di dirci che ci amiamo, passa dal mio divano. Yomi, se mi guardi, parte in sordina, poi diventa travolgente, tanta roba sto brano, Paoletti. Adesso vediamo cosa dice. Assolutamente, è un grande, un nome da tenere sott'occhio, perché è una sorta di Gianluca Grignani, però del rap. Domenico Giovanni Pini, si chiama così, ovvero sia Yomi, 21 anni di Cervia, già il vincitore del Tour Music Fest 2022, categoria ovviamente rap, e vincitore del contest Real Talk 2021. E poi diversi premi al suo attivo. Lui sta studiando scienza della comunicazione, tanto per cambiare, penso sia la facoltà più, come dire, più così gettonata da tutti. Comunque è disponibile sul nuovo singolo che è appena uscito, Se mi guardi. Voglio ricordarvi che poi tra lui questo brano è già in finale al premio Lunezia e si esibirà a breve al Riccione DJ on stage. Noi non abbiamo paura della concorrenza, lo diciamo. E poi insomma ci sono diverse cose che bollono in pentola per questo cantautore, possiamo dire cantautore, rap e quant'altro, perché è molto eclettico, fa veramente di tutto, balla addirittura, canta, balla, è bravissimo, scrive, beh insomma se sono rose fioriranno. Basta con Sto Rose, diciamo semplicemente che è un artista moderno, stile Timberlake. Completo, direi, sì, completo. Adesso Paoletti c'è l'ultimo brano di questa prima parte, ce lo annunci pure lei. Allora, abbiamo in scaletta Cecas, spero di aver pronunciato degnamente il tutto. Cecas ci presenta 30 febbraio, che si sa notoriamente 30 febbraio non esiste. Ogni tanto anche il cielo ha le nuvole, ma la luna lo sa, il sole là e l'aspetta. Ogni tanto anche a me sa, mi si oscura il volto, il sorriso non me l'hanno mai tolto. Come la luna col sole tu restami attorno, che con un bacio danno vita ad un nuovo giorno. Come le nuvole vanno col vento, anche i momenti bui se tu resti al mio fianco. Neve cade, il mondo in silenzio. Di senza ali, con i piedi giù a terra. La testa è un casino, sempre alla mia età. Da una parte i miei sogni e poi c'è la realtà. E spiegami, perché ogni giorno che passa rimani un problema. Li accumuli, aspetti il 30 febbraio chi te li sistema. E con questo brano di Cecas, 30 febbraio, come diceva prima Paoletti, giorno che notoriamente non esiste, poi molto lontano anche climatologicamente da questo momento, termina questa prima parte di Easy Pop, di cui però adesso ci parlerà prima della cantante Paoletti. Ma sì, dai, prima di concludere, Francesca Zentilin, si chiama così, praticamente Cecas, che è poi il suo nome d'arte, e partono come un duo insieme a praticamente il suo produttore attuale, Cristiano Norberto, che praticamente da 4 anni collaborano insieme. Inizialmente appunto il progetto artistico si chiamava Ops, ma poi che dire, che il produttore ha detto: sai che ti dico, io mi stanco di meno a fare il produttore, vai avanti tu. E lei ha deciso di chiamarsi Cecas e di andare avanti con i suoi brani che nel frattempo aveva già inciso. Che dire, lei canta da sempre, ma si avvicina in modo serio alla musica soltanto qualche anno fa. Bene, anche con questa notizia è tutto. La regia mi fa dei strani gesti. Piccolo break, allora. Nessun gesto particolare, finita la prima parte, Paolo. Ok, allora ci fermiamo qui, rientriamo fra pochissimo, non andate via. Buona estate da Easy Pop e da tutta Radio Città Fujiko. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti, regia del Bolognese Volante. Eccoci qua, bentornati. Dopo il piccolo break pubblicitario rientriamo in studio per parlare di musica indie e non solo. Io sono Franco Paoletti e al di là del vetro, come sempre, c'è il nostro Bolognese Volante. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Benvenuti a questa 30ª puntata di Easy Pop in questa domenica estiva del 30 luglio. Buon divertimento. Eh beh, sì, diciamo che questa è la seconda parte, quindi velocemente vediamo di presentare anche gli altri personaggi che oggi abbiamo selezionato. Partiamo con Igor Mulas e ci presenta Geloso Remix. Sono geloso, simpaticissimo questo brano di Igor Mulas, Geloso, di cui adesso Paoletti mi spiegherà un po' la derivazione, perché non so niente io. Ma come no? È il brano del momento, si balla soprattutto nelle discoteche, sta andando molto anche nelle radio. Igor Mulas, cantautore pop, pensate, nasce a Cagliari e poi consegue il diploma di ragioniere, si trasferisce a Londra e lì studia canto, pop, rock, soul e tante altre cose, insomma, interessanti. Inizia poi le sue produzioni musicali e poi si ritrasferisce a Roma. Tre album al suo e poi un album addirittura in inglese con diverse cover. Che dire, quando appunto diciamo la musica non ha così, non ha confini, lui praticamente ritorna alla musica con questo Geloso remix. Infatti questo è un remix, sta andando molto molto bene questo singolo e che dire che queste volte sono proprio rose. Complimenti per Igor Mulas, che appunto sta sbancando con questo singolo che si può dire il singolo dell'estate. A questo punto noi andiamo avanti, regia. Con che cosa? Non ho sotto mano. Ah, lei mi fa. Ah, sì, certo. Ah, allora attenzione a presentarcelo: Erbe Officinali Aquile. Perché l'estate. Solo un problema, solo un'idea che gira in testa come una iena, mentre l'inverno, sai, ti invita fuori a cena. Io ti regalerò un'anestesia per farti riposare un po' stasera. Il mondo è brutto, sai, e lo sappiamo, ma se hai paura questa notte, dai, vieni che partiamo. Oh, tu bevi dalla mia mano, che le fontane sono tutte chiuse e sti lampioni sembrano meduse. E respiriamo lo smog su ruote panoramiche, ci perdiamo nel buio e sotto sfrecciano le aquile. E la città cade a pezzi e la città cade giù, stretti dentro un keyway, noi guardiamo da su. E ti disegnerò sopra quel muro come si fa con i graffiti, mentre piove acido e si sciolgono i vestiti. Indicami col dito come fossimo bambini. Cosa ti piace di me? Cosa ti piace di me? Se guardo fuori vedo solamente le nuvole viola, un uragano di fuliggine, oscurare il Luna Park. Vedo i fanali delle macchine, bruciare ossigeno, lo sguardo perso dei gabbiani sopra sta città. E respiriamo lo smog su ruote panoramiche, ci perdiamo nel buio e sotto sfrecciano le aquile. E la città cade a pezzi e la città cade giù, stretti dentro un keyway, noi guardiamo da su, turudu, noi guardiamo da su, turudu, noi guardiamo da su, turudu, noi guardiamo da su, e ti disegnerò. Erbe Officinali con questo brano Aquile, mi piace moltissimo, devo fare i complimenti alla sua redazione musicale. È anche arrivato un sms che ci chiede dov'è la donna delle pulizie che c'era domenica 2 luglio. Io mi astengo da qualsiasi commento e lascio a lei il microfono. Sì, sì, no, su queste cose non si può praticamente rispondere. Io invece voglio salutare Viola. E a questo punto invece andiamo avanti e parliamo di questo gruppo che ha avuto un momento topico tra il 2018 e il 2021, grosso modo, perché lì hanno avuto il loro momento di grazia, se non sbaglio, soprattutto per un singolo che si intitolava Schiena e poi un altro singolo, Un altro mondo, che ha totalizzato quasi 1 milione di ascolti su Spotify, è stato inserito appunto nelle loro liste, insomma, di Spotify, che praticamente lo ha fatto volare nelle classifiche e ha dato popolarità a questo gruppo che, se non sbaglio, viaggia intorno al cantautorato pop di Terracina, quindi Roma, vero regia? Ecco. Sì, Roma, bravo Paoletti. ecco, ho studiato un po' di geografia. Allora, Erbe Officinali ci presenta il loro nuovo singolo che rompe un po' di silenzio, che è appunto in cui hanno meditato e hanno fatto uscire questo singolo. Passiamo alla prossima, si intitola Guarda te, estate, ce la presenta Antonio Giagoni. Odore. E un'altra estate tornerà e laverà la malinconia. Ci troveremo tutti svegli di notte con un panino in mare, cuore che batte. Sempre potrò viaggiare tra la gente, potrò sentir l'odore della pelle che non sento da un po'. Una canzone senza ritornello, una candela da soffiare, un camice senza dottore, un pennello senza pittore, e una torta senza festa, e una doccia senza testa, e un'altra estate tornerà e laverà la malinconia. Ci troveremo tutti svegli di notte con un panino in mano e il cuore che batte. Uguale, perché costringerti ad amarmi non so fare. Ma Paoletti, ma che bella selezione musicale che ci ha proposto questa domenica. Complimenti, questo è Antonio Giagoni, la sua estate, di cui adesso Paoletti ci parlerà. Sì, lui nasce come strumentista per una band fiorentina o giù di lì, e poi praticamente dopo degli album, come dice Luca Carboni, spesso le band si sciolgono. È così accaduto, lui è rimasto a piedi, però non, diciamo, non si è scoraggiato e anzi ha continuato a lavorare alla scrittura dei suoi brani. È stato selezionato, anche individuato per esempio da Mogol, e poi insomma lui ha avuto diversi approcci musicali con diversi personaggi musicali, ed è stato selezionato da Aletti Editore per l'inserimento dell'antologia Autori di Mogol, e nel 2018, udite udite, vince il premio miglior cantautore in occasione del premio Lucio Dalla, e quindi ovviamente giochiamo a casa nostra. Nel 2022 appunto inizia la sua produzione, il suo primo disco da solista, e questo è praticamente l'assaggio di canzoni quasi fuori moda al suo album, che è praticamente stato anticipato da un singolo che è, appunto, si chiama Tremo, e questo è il nuovo singolo per l'estate in attesa dell'album. Io direi che questo personaggio andrebbe coltivato, perché veramente, se siete stati attenti, i suoi testi sono molto, a dir poco, molto molto insoliti e, come dire, interessanti. E poi insomma è un patito della luce della musica di Lucio Battisti, volevo dire questo, e poi insomma ha conosciuto veramente tanti grandi artisti, quindi ne scopriremo di più prossimamente nelle prossime puntate. Tra l'altro ha aperto i concerti per esempio di Levante, di Max Gazzè, e poi di altri artisti, quindi un artista sicuramente completo. Direi a questo punto di andare con la prossima. Carmen Pieri ci presenta Corde Vocali. Una volta in più della fine, c'è polvere sotto le mie sneakers. Tu augurami buona fortuna, e se non credi nei miei sogni, no problem. Oro tra le mie greve, vaso giapponese, non si butta via niente, tutto serve. e non mi somiglia per niente chi si arrende. Lascio parlare, riporto sulla riva del fiume, arrancano, ma poi li vado a salvare. Ho di meglio da fare, stelle da toccare, un pensiero costante, I've got a dream. E non mi somiglia per niente chi si arrende. Mica male questa signorina, ha 20 anni, si chiama Carmen Pierri con la doppia R e adesso Paoletti ce ne parla un po' di più, approfondisce un po', eh? Assolutamente sì, per chi guarda i talent nel 2019 ha vinto The Voice of Italy con l'inedito Verso il Mare. Nel 2020 esce il suo primo album dal titolo 25, pensate un po', ha duettato insieme ad Arisa, Gigi D'Alessio, Maurizio Vandelli e i suoi idoli sono Alicia Keys, Stevie Wonder e Giorgia, quindi non male, eh? Ha le idee veramente chiare. Per lei ci sono altri eventi come il Festival di Castrocaro e lei appunto spera di arrivare al Festival di Sanremo visto che se lo merita. Tra le sue amiche vanta Juliet Ashby che è stata la migliore amica di Amy Winehouse ed è una corista cantautrice. E abbiamo detto tutto, Paoletti. E beh, se queste sono le premesse, come non darle ascolto, insomma? Andate a vedere chi è, perché di tutti questi personaggi noi facciamo questa, diciamo, questo curriculum, questa scheda, ma voi che sui social dove appunto troverete tutta la nostra playlist, andate a cercarli e scoprite un po' chi sono i loro volti, i loro video e capirete meglio ovviamente questi personaggi, vi addentrerete a nuovi personaggi che ahimè in TV non trovano spazio e quindi è un vero peccato perché poi ci sono anche fenomeni musicali da Spotify, quindi da social. Almeno non trovano spazio per ora. Siccome lei parla sempre di queste rose, non vado avanti, non vado oltre, e speriamo che invece poi un giorno lo spazio lo trovi, né Paoletti? Le ricedo la linea. Eh beh, assolutamente sì. A proposito, dopo Carmen Pierri andiamo a vedere che cosa succede nella musica inglese, perché qualcuno ci aveva scritto dicendo ma voi parlate di indie, non scrivete, non dite che cosa succede nell'indie inglese, per esempio americano. Bene, noi abbiamo dato anche un occhio cosa succede oltre America e vi proponiamo The Allergies featuring Andy Cooper, questa band travolgente che del funky veramente incredibile. Ci propongono Green Light Go, è appena uscito il loro album, ascoltiamoli. Pack 'em in, let the mercury rise, they hurry me by. Trooperly security guys to get me backstage. Meet money and rack man, we slap hands and prepare the attack plan. Gotta hit them hard when the spotlight's shining. I'ma get beastie, call me Mike Diamond. Setting up a party like pyrotechnics, developing the rep and defying the skeptics. Cause there ain't no time like showtime, and any opportunity I'm going the whole nine. All the stress and the tension fades when me and the A-team step on stage and say red light, yellow light, green light, go! Light the fuse, it's time to blow. Do it live with the dynamic D-U-O. The allergies represent Bristol. Red light, yellow light, green light, go! Lock in, let's start the show. Do it live with the dynamic D-U-O. The allergies, all systems go. Ready. Tobey Maguire, but the mic is my only superhero attire. When I swoop down swinging like I'm holding the wire, and web soaker foe, aim scoping the fire. My tongue twists like it's doing jujitsu, to flip moves quicker than the lips of Chifu. Exuberant, doing it right on every rudiment. Fluid, I maneuver without using the lubricant. I'm an assassin, killing them kindly. I'm aided and abetted by the boys behind me. Double DJs that shape the playback. The stage crash straight from the days of way back. You gotta catch us at a traveling show, when the band throws blow after batter and blow. Just murder in the set, put a tag on the toe, and when Adam gets paid, it's a rap with a bow. Kick back, decompressing in the dressing room. My heart rate going down like a lead balloon. Tomorrow morning we can check out at 10 and head to the next town where we'll do it again. Yelling red light, yellow light, green light, go! Light the fuse, it's time to blow. Do it live with the dynamic D.U.O. Mica male questo brano trascinante che ci viene proposto dal rapper Andy Cooper in compagnia dei The Allergies, un duo di Bristol, niente po' di meno. Non scherziamo mica qui Paoletti, con Green Light Go, a lei il microfono. Esattamente così, Cooper degli Ugly Duckling, un gruppo musicale hip hop statunitense che si è unito ancora una volta con i The Allergies e stanno stravolgendo in effetti le regole della loro miscela musicale esplosiva hip hop e funky. E pensate un po', questo album è uscito da poco ed è già in classifica, si intitola Tears The Place Up ed è già in classifica e sta già piacendo e sta già impazzendo insomma tutta l'Inghilterra. Quindi America e Inghilterra si uniscono per questo album davvero incredibile, con suoni moderni da club, con suoni anche un po' vintage soul funk. Ci piace tantissimo e l'abbiamo voluto assolutamente proporre, perché veramente sarà un brano, è già il mio brano dell'estate, qui lo dico e non lo nego. The Allergies featuring Andy Cooper, appunto Green Light Go, il singolo che abbiamo estratto da questo album. Bene, detto ciò, regia, velocemente, che cosa abbiamo ancora sul piatto numero 2? Ah, l'ho riconosciuto subito. Luca Madonia, ancora musica italiana con Non c'è nessuno. Sola, non chiedermi perché questa notte insieme, tu mi dirai cos'è, cos'è che ti spaventa, che non spaventi me, qualcosa ti tormenta e tu non sai cos'è. E non pensarci più, non c'è nessuno. Puoi fidarti, puoi stringermi la mano. E non pensarci più, non c'è nessuno. Puoi guardarmi e farmi una risata. Tanto nei tuoi sogni, son certo che sei là. Io non immaginavo di averti qui con me. So che sei depressa, ansiosa più che mai. Quell'aria insofferente anneghi nei tuoi guai. E non vorresti uscire, la gente non ti va. Può capirti e poi non mi sopporti. Credi quando dico la verità sta in te. Per ogni tua esigenza dammi tempo e quanto basta. E non pensarci più, non c'è. Luca Madonia, Non c'è nessuno. Vedo Paoletti qui che balla addirittura. Adesso chissà cosa ci racconterà. na, na, na, na. Allora, per festeggiare i 40 anni di musica è uscito praticamente a novembre-dicembre, stiamo tutti ben calmi, il nuovo lavoro discografico di Luca Madonia, di cui avevamo già parlato. Non mi basta e l'alieno erano i due brani, insomma, quelli che hanno praticamente aperto questo album, tra cui, insomma, nell'alieno c'era anche Franco Battiato. Questo è il terzo singolo estratto da questo album, non c'è nessuno, una versione un po' acustica. Era questa la canzone che ha dato veramente una notorietà impressionante ai De Novo, anzi direi che proprio questa è un cavallo di battaglia sicuramente, sia di Luca Madonia che dei De Novo. Poi si sono disciolti De Novo e quindi sono rimasti soltanto due personaggi appunto nel mondo musicale, Luca Madonia e l'altro, questo mi sfugge in questo momento. Però a proposito dei De Novo, vado a così a raccontarvi che purtroppo è venuto a mancare poche settimane fa Tony Carbone, già bassista dei De Novo e già produttore musicale, compagno di band appunto di Mario Venuti e di Luca Madonia, che poi tra l'altro sono i due cantanti appunto dei De Novo, quelli più conosciuti per dire. Bene, che cosa dire ancora, regia? Allora, adesso le faccio una bella sorpresa. Discofitta, discofitta, discofitta. Hi, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic. Quanti ricordi, Paoletti, eh? Io ero un bambino, avevo appena iniziato a fare radio, pensi un po', e mi ricordo questo tormentone come un incubo, per dire. Mi ricordo il video, che era una sorta di casa di Barbie con appunto Ken e Barbie. Beh, ce lo troviamo qualche anno dopo, direi un ventennio dopo. Questo brano è del 1997, proporcelo è una band danese, si chiamano Aqua, è scritto A-Q-U-A. Sì, sì, li ricordo molto bene, ricordo Tormentone, fu uno dei casi, insomma, di cui si parlò molto a scapito appunto della musica grunge che impazzava. Dall'altra parte in discoteca si ballava questo Baby Girl appunto degli Aqua. Li ricordo benissimo, che dire che sono ritornati di moda perché sono stati inseriti come colonna sonora, se non sbaglio, appunto nel film Barbie. Esatto, un film in prima visione in questi giorni nelle sale cinematografiche. Che io eviterò per quanto possibile, anche se dietro dicono ci sia proprio una struttura sociologica, insomma andrebbe visto per capire meglio la società. Io non lo so, bando alle ciance, a questo punto Franco Paoletti su questo brano si congeda e la responsabilità è del Bolognese Volante di questo brano. Io avrei messo qualcosa d'altro, mi aspettavo qualcosa d'altro. La smetta Paoletti, ringraziamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici per averci ascoltato, speriamo di aver fatto trascorrere loro un'oretta in spensierata allegria con la musica indie di Radio Città Fujiko. Vi lasciamo alla programmazione appunto delle frequenze di 103.10 di Radio Città Fujiko. Abbiamo cambiato il ponte, quindi se doveste avere delle segnalazioni potete telefonare in studio per dirci se ricevete o meno correttamente il segnale, ma dovrebbe essere tutto a posto. Noi ci sentiamo domenica prossima. Se volete riascoltare la puntata potete farlo andando sul sito della radio, digitando www.radiocittafujiko.it, cercate la cartellina musica playlist e lì troverete tutti i podcast, e nella cartellina musica troverete anche i podcast delle altre puntate delle trasmissioni radiofoniche dei nostri redattori. Bye bye dal Bolognese Volante e da Franco Paoletti, baci e bracci, ciao ciao.